Salve a tutti, siete su Absolute Beginners, io sono Babe. Io sono Sasà. Ciao Babe. Un'altra puntata incentrata su Chicago. Ci piace questa città, o quantomeno è stata molto importante dagli anni 80 in avanti, perlomeno, per lo sviluppo di un certo tipo di musica underground. Tantissimi gruppi che hanno avuto, diciamo, poca o nulla fortuna commerciale, ma per noi sono stati molto importanti e hanno influenzato un sacco di altre band. Sì, poi Chicago è stata la città con la quale abbiamo iniziato questo percorso con gli Effigies e quindi oggi torniamo molto volentieri indietro nel tempo e indietro a questa città per parlare dei Naked Reagan, che erano i compagni di merenda degli Effigies, Big Black e questi gruppi che abbiamo già nominato ma che oggi proponiamo di nuovo a voi, gentili ascoltatori e ascoltatrici. Oh, Beh, eravamo rimasti parlando dell'affinità tra tutti i gruppi di Chicago, gli iniziatori perlomeno della scena rock di Chicago, hardcore, punk, o meglio, ormai possiamo dire post-hardcore, perché qua siamo nel 1983 e l'hardcore era in giro già da 3-4 anni. E in effetti quando l'hardcore arriva a Chicago, già diciamo a proposito degli Effigies, diventa qualcos'altro. Comincia subito ad essere ibridato, gli Effigies erano molto influenzati dal post-punk inglese. E questi Naked Reagan invece penso che siano influenzati dall'hardcore stesso, lo rimescolano. Il modo di cantare è da vaudeville, ma già i Dead Kennedys l'avevano fatto. E, i suoni sono un misto di rock and roll molto pop, con, invece alternati alla violenza tipica dell'hardcore vero e proprio. E in questo sta la loro originalità, unita a un senso of humor non indifferente. Questa canzone si chiama Potential Rapist, potenziale stupratore. Sì, e a mio parere rispetto ai loro amici degli Effigies, appunto, sì, hai detto, vabbè, hai detto bene, il suono è un pochino più colorato a mio parere rispetto agli Effigies, che rimanevano un pochino più seriosi anche nell'approccio compositivo con la loro missione. Però anche questo EP che stiamo ascoltando, il primo, come facciamo sempre qui ad Absolute Beginners, Basement Screams, hai detto tu già, 1983. 83, e se i nostri ascoltatori si ricordano, noi nominammo all'epoca la Ruthless Record, fondata da Steve Albini e il leader degli Effigies John Cassidy, e questa etichetta produrre anche i Naked Reagan, appunto, sempre tornando al discorso che erano tutti amici, una grande compagnia di musicisti che contribuiscono e formano da soli una scena da un giorno all'altro quasi in una metropoli grossa come quella di Chicago. Thank you. ottimi questi Naked Raikkonen, davvero ottimo anche il loro senso di ironia, che non penso fosse facilmente assimilato da tutta la critica dell'epoca, un po' come accadeva anche per i coevi e conterranei Big Black. D'altronde, Jeff Pezzati sarebbe poi finito a suonare assieme a Steve Albini nei Big Black. Evidentemente, un comune sense of humor e una visione distopica del mondo li accomunava. Questa canzone prendeva in giro tranquillamente il classico ragazzo giro hardcore, che era il Rollins duro, roccioso, il motherfucker, come dicono negli Stati Uniti, non in senso dispregiativo in questo caso, ma come dire, questo è un duro. Sì, poi politically correct in pratica non esiste, nel testo dicono, beh, could be worse, sì, potrebbe essere peggio solo se vivessimo in Pakistan, quindi insomma queste battute. Poi Sì. dicevamo, vabbè, mentre sentivamo le canzoni, che spesso nel mondo punk forse il messaggio viene sempre un pochino generalizzato ed è facile attaccare chi fa musica punk con l'etichetta di ignoranza, violenza, però c'era anche molto, come hai detto tu, senso ironia, senso civico e anche delle critiche, delle frecciatine, a volte non super politically correct, come ho appena detto, però Ma mi sa che nell'83 il Political Correct non era ancora arrivato, non ancora non è fosse. arrivato. Thank you. Siete ancora su Absolute Beginners in compagnia di Naked Raigan, di Babe e di Sasa. E Naked Raigan, che siamo ormai nel loro primo vero e proprio LP, si chiama Trob Trob, ha una particolarità, la sua copertina, scusate, fu disegnata da un artista comico di Chicago, tanto per ricordare il fatto che, come dire, faceva un po' tutto in casa ed era una scena ancora molto locale. E questo artista, che poi divenne un comic writer, un fumettaro abbastanza famoso, lavorò anche per Marvel, si chiama Mike Sainz, e già nelle copertine aveva un'idea di cyberpunk, o era abbastanza influenzato dalla fantascienza di quell'epoca. Il cyberpunk era di lì a venire, ricordo che siamo già nel 1984, e poi con questo disco cambiarono anche etichetta, perché l'esperienza della Ruthless Records non andò molto bene. Infatti registrarono questo album per la Homestead Records, che tra l'altro nella pagina Wikipedia dice che era famosa per non pagare i propri artisti. Questo anche per dare ai nostri ascoltatori un'idea del successo commerciale o monetario che questi ragazzi hanno avuto, quindi nullo. E a noi ci stanno molto simpatici. Mentre ascoltavamo i primi brani di questo Throb Throb, stavamo ridendo qua, vabbè, leggendo un po' le lyrics, quindi i testi molto spiritosi, dei Naked Raygun. E beh, continuiamo. Love anyway, and I better not do it in my flow. Beh, qualcosa era cambiato anche perché la formazione dei Naked Raigan negli anni si evolve, diciamo, cambia. Jeff Pezzati, cantante, rimane bene o male l'unico membro fisso, mentre si alternano bene o male tutti gli strumentisti. Qua c'è Paul Haggerty la chitarra, prima c'era Santiago Durango, ma era già passato ai Big Black con Steve Albini, il suo amico, e quindi l'evoluzione della band che negli anni ha sempre aggiunto, cambiato, sperimentato stili è dovuta anche a questo, al fatto che intanto le canzoni non erano scritte esclusivamente da Pezzati, ma c'era una buona condivisione e divisione dei compiti, quindi c'era una buona varietà, si sente tra un pezzo e l'altro anche nello stesso album. Sì, sono vaderato tra l'altro nell'EP che abbiamo iniziato, abbiamo ascoltato a inizio puntata, nessuno dei pezzi era stato composto da Pezzati, e invece da gli altri che suonavano in questo EP, e poi fuori tutti per il primo album, primo LP, e come dicevi tu, dentro altri protagonisti della scena di Chicago, a conferma di quello che ripetiamo all'inizio puntata, ovvero un gruppo di amici che si scambiano idee, strumenti, stili. E che hanno scatenato un buon putiferio, direi, e suona fino ad ora. Thank you. Beh, siamo arrivati alla fine anche di questa puntata. Spero che i Naked Raikan vi siano piaciuti, gentili ascoltatori. Questo è Babe. Qui è Sasà che vi ricorda anche la pagina internet neverbeginners.blogspot.com, dove noi postiamo tutte le registrazioni, tutti i podcast che vi stiamo proponendo, e trovate un piccolo blog e un link al podcast che potete anche scaricare. E con questa vi salutiamo, alla prossima puntata. Ciao a tutti quanti.